faccio viaggi scomodi, su e giù per la metropoli, come popoli nomadi, giro posti insoliti, volti anonimi, occhi attoniti, psicomani, più che atomavi, in trip come funghi allucinogeni, col mix sa che siamo dei fenomeni, sui beat ti rominano monologhi, fanculo la tua hits e ti omologhi ai soliti uomini, fatti di alcolici, scopa poi drogati, aneddoti anomali, omici mitomani, tipe ninfomani, chili di guida al posto che psicologi, resto tranquillo pure se mi provochi, zero wannabe se viaggio veloce, collasso i cronometri, come una Lambo a 300 km, se mi stai dietro poi stomachi, come una sbronza di JMB, torni a casa sui gomiti, ragazzi, giro vaghi palazzi a pezzi, la città se ne va rotoli, pensieri agorafobici, ricordi malinconici, dei tempi vecchi, quando eravamo più giovani, ma siamo gli stessi, coi soliti difetti, dici che vuoi scappare, sono dieci anni che aspetti, come la metti, rifletti, in effetti, tutti mi dicono di restare, ma hanno già i loro biglietti, quindi vado a lavorare, ma non so se poi ne vale la fatica che ci metti, piglio i mezzi, torno a casa a pezzi, scrivo testi, molesti, sotto pressing, su Moleskin, dando luce a quei momenti che mi restano impressi, che tengo stretti, viaggio, mangio, stai miglia, in trip alla Robbie Williams, come on. Costa Smeralda in campagna, la vigna, campiglio di vigno, montagne, mi piglio una tappa, c'ho il mare di fissa, di fissa, fossa la city in abissa, in tonton si guasta una mappa in tasca, in marcia la traccia, sfreccia del pista, me ne vado, non voglio Milano, non affondo nel divano, in qualche modo me la cavo, volo alto, vago, l'importante è che non cado, guido ad una mano, freno mano contro mano, ti ribalto in curva, accelero, scanno, sei dietro che mi segui da un anno, il ritmo che spingo fa ballare il tuo cranio, non fermi questo viaggio, ti mette come un camion, se c'è lo charme, io porto il mio charme, non farebbe sboccia, sboccia champagne, nel buio della notte mi guidano star, se fuori dal pianeta, mission to Mars, non gioco a fare il Batman, mollami fra, sono pezzo da una vita, non mi fermo qua, finché ciò che ho dato non mi ritornerà, finché solo l'orizzonte non mi cenerirà. Viaggio verso il sole, viaggio dal tramonto all'alba, viaggio verso il sole, giro il mondo con più calma, viaggio verso il sole, cerco ancora la mia meta, senza più parole, perché il sole è il mio profeta, non mi chieder dove vado, I'm creeping, ora parto, dove andiamo, 8 1/4, nulla in mano, sono ancora a Milano, sono ancora a Milano, sono ancora a Milano, già finita, la testa si tiene impegnata con quello che tiene, non vuol dire isolarsi o levarsi i pensieri, ma almeno saperli nascondere bene, due stracci, tre sbanfi, allontano le solite sirene, rimane, rimanda, presenta domani, resistere qui solamente mestiere, non un semplice viaggio, a sto giro non mi basta un assaggio di un week intero, resto sereno, un paio di beat vola a costo zero, vero incantesimo, non lo spezzate, lasciate passare l'ennesimo inverno, non mi ferma lo stesso casello, il primo cartello con scritto si perde, sono il primo paese vicino col cittadino scontento e depresso, so sta pannino, caffè, un amarino, senza scontrino, fra fa lo stesso, certo che sento, la strada è umida e incerta, aspetta, non c'è meta unica, sceglierne una, forse cosa stupida se ogni centimetro è moto, centrifugo, l'ho già detto, non accosto, anche se è rosso, vado oltre, dove posso, dove non c'è più nulla attorno, dove non mi serve una cartina né cruscotto, resie le mie come quelle di Cagliostro, 4 frecce, però non mi sposto, chiudo il racconto, I'm creeping, 2 chilometri sono da te. Viaggio verso il sole, viaggio dal tramonto all'alba, viaggio verso il sole, giro il mondo